su di te, solo su di me, solo su di te. Ho corso molto, spendendo tanto. Il sacrificio ha un prezzo alto. Ho dato per scontato tutto, tutto ciò che avevo accanto. Ma cazzo niente mi è dovuto, da quel giorno sto pensando, pensando che sopporti e che giustifichi. In mezzo a quei bambini ricchi, il mio disagio mi rendeva un cazzo di robot. Mi muovevo come Vicky. Ora i soldi sono il succo del discorso ed io sono così grosso per le tue palline. E sì, una parola fuori posto, metti le tue mani a posto, schizzi in aria come Jet Li. Dammi la tua colla, Zeb Pechegno, fidati di me. C'è tutta la mia vita dentro un click come buscapè. Blocchi silenziosi, fuori sono già le tre. Ribellione nei miei blocchi, ora sei con me, sei con me, sei con me. Esco fuori da qua, cerco una via d'uscita, ma è la salita è là, prova a superarla, ma è difficile passarla, non ci sono scuse, ho paure dura, vedo solo quattro mura chiuse. Chi mi sostiene? Chi mi vede? Chi ci crede? Chi si muove? Chi si siede? In game over, chi si siede? La pressione la si sente, credo solo in me, man, detienilo presente. Che cazzo c'è, uomo? Cos'è successo, uomo? Non trovi un nesso, uomo, ora che ti senti solo. Hai capito solo mo' che devi andarci piano. Siamo in pochi, siamo soli, nessuno ci dà una mano. Pochi soldi, molti sogni, troppe delusioni. Molti conti, pochi sconti, brutte situazioni. Rimango ancora qua in attesa della svolta. Non sono stanco ora, rischio e chiamo il banco questa volta. Io non lo so, uomo, che cazzo può succedere. Non voglio perdere, non voglio cedere. Inutile chiedere, ma voglio prendere, non prenderle. Devo contare solo su di me. Io non lo so, uomo, che cazzo può succedere. Non voglio perdere, non voglio cedere. Inutile chiedere, ma voglio prendere, non prenderle. Devi contare solo su di me. Rosso d'ogni quartiere, con ogni mestiere. Fatto il buio si trasforma in nuovi reportage da televelo. Un altro piano, quello che siamo. Noi solamente pedine in mano. Bruciamo il posto da dove veniamo. Vizia e virtù, man, fra gloria e patume. Io sono fedele mentre il mondo fa puttane. No, non è una favola, la cavola c'è che rimane. E gioia pianto, occhi di rabbia, occhi di madre. Solo un dio, perdono per lui cerco di dargli forza. Ma ho 100 drammi, 21 anni, danni, neanche Dio li sa chi salverà. Sta 100 ora all'inferno, ma ora non sa se vivere. Per poi ridimersi nell'aldilà. Guarda, via dolori, notti e colori. Io ora ammazzo il tempo prima che mi faccia fuori. E la mia voce amplifica sti mille cori. Butto la biro, via la carta, con mass, mass, lecce story. Non voglio credere alle balle che mandano dalla tele. La mia vita conta poco e dopo contano le loro prede. È così dalle due torri a Piachinede. Ora dammi più Maria da fare fuori nel quartiere. Non è facile vivere fra. Meglio un buco nelle tempie o un buco nell'acqua. Meglio la libertà per ogni figlio di puttana che spara. Devi contarne almeno 100 che giurano su una bara. Ma sei il primo che vive le barricate è un ingenuo, perché gira disarmato per le strade. Io non vivo di sogni ma di realtà che mi porto dentro, come i miei fottuti uomini. La mia città C-A-L-I Italia, dammi money, cash shows, donne, grana e fama. E profumo di rivolta nelle vie, vado avanti. I miei frati fanno fuori i tuoi diamanti. Io non lo so, uomo, che cazzo può succedere. Non voglio perdere, non voglio cedere. Inutile chiedere, ma voglio prendere, non prenderle. Devo contare solo su di me. Io non lo so, uomo, che cazzo può succedere. Non voglio perdere, non voglio cedere. Inutile chiedere, ma voglio prendere, non prenderle. Devi contare solo su di me. Io non lo so, uomo, che cazzo può succedere. Non voglio perdere, non voglio cedere. Inutile chiedere, ma voglio prendere, non prenderle. Devo contare solo su di me. Io non lo so, uomo, che cazzo può succedere. Non voglio prendere, non voglio cedere. Inutile chiedere, ma voglio prendere, non prenderle. Devi contare solo su di te.